sveglio seduto sul sedile posteriore di una macchina che sola si muove. Il finestrino non riflette il mio viso, poca la luce come in uno scatto senza viso. Una mia foto a terra senza sorriso, quello che la vita per me ha deciso. Notizie dall'altra parte del mondo stanno passando in radio, ma io faccio il giro tondo sullo stesso stradario. Viaggio volontario per cercare tra me te che mi porti, cercando un destinatario. Ma ti raggiungo anche se il viaggio è lungo, anche se non è per scritta una destinazione. Tutto sfogato fuori si muove, che fatale complicazioni. Non posso raggiungerti se Dio non vuole. Io mi chiedo dove sei, io mi chiedo cosa fai. Voglio raggiungere, ma sei lontano da me. Io mi chiedo dove sei, io mi chiedo cosa fai. Voglio raggiungere, ma sei lontano da me. Che metto fuoco, ma capisco subito di non essere arrivato a destinazione. Non sono arrivato ancora, ma per capirlo mi è bastato poco. Questo non mi sembra il tuo posto giusto. Non è per niente il posto migliore. È bastato un attimo, uno scontro frontale con la vita. Io non ci credevo, mi ripetevo, beh al massimo avrà riportato qualche ferita. E invece no, io distante da te, il tuo corpo a terra immobile. Su quelle due ruote ti sentivi un re. Cosa provavi era indescrivibile. Ma anche i migliori spesso cadono. Nella vita si cade, ma non tutti si rialzano. Io che vago triste e solo dentro la macchina del destino. In questo momento non so neanche che ore sono. Ho capito che la fine è l'arrivo, ma adesso non posso raggiungerti. Il nostro desiderio devo realizzare, anche se i giorni sembreranno gli ultimi. Avrò la forza che tu mi hai saputo dare. Alzo il freno a mano, apro lo sportello e scendo. Ho capito che proprio adesso non è il momento. Tu mi hai detto che la vita è una, vivila adesso. Grazie Vincenzo. Grazie. Io mi chiedo dove sei, dove sei? Io mi chiedo cosa fai, cosa fai? Ma sei lontano da me. Io mi chiedo dove sei, dove sei? Io mi chiedo cosa fai, cosa fai? Ti voglio raggiungere, ma sei lontano da me. Io mi chiedo dove sei, io mi chiedo cosa fai, ma sei lontano da me. Lontano.